trucchi. Vabbè, non parli. Hola, hola, hola, hola. Hola. Attenzione, sì, c'è qualcuno. Prova radio. Uno, hola, uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova, hola, hola. Attenzione, 10, c'è qualcuno, no? Chi è che parlava poco fa? E c'era il baracchino tutto messo male. Che mi fa male quell'affare che c'ho. Cazzo, ma non stai prendendo niente? Ho preso a volta, mi ha giubilato un guidato, che si chiama, la sono nuda, non mi arriva finita. No, volta le mungenti devi mettere come pomata. Cos'è la laser? Il laser è per i colpi, quelli per gli ematomi, quelle cose lì. Volta un certo. Ascolta, una che fa bene invece di tutte le altre bustine, tipo l'invisoride, eccetera, eccetera, occhi, eccetera, fa bene l'Imedex. Perché l'occhio non mi ha fatto nulla, non ne posso prendere di quella roba lì. No, se tu prendi una bustina di Nimedex, ok, non mi regalate proprio il medico, perché io soffro molto di lombosciatalgia e quindi ogni tanto una bustina la devo prendere, però è molto più efficace dell'occhi e è molto meglio del divisorile, capito? Molto, molto meglio. E dopo cavolo la pigliava il camerino. Domani mattina in farmacia. Domani mattina in farmacia, capito? Nimedex. Sono delle bustine come l'occhi, come il dimisurile, però è molto più potente, molto più efficace, soprattutto per i dolori così, la schiena, capito, lombosciatalgie, strappi, eccetera, eccetera. È un antinfiammatorio eccezionale. Figurati che mi hanno dato anche quando ho finito la cura della gola. Assai questa cura. No, guarda, dove c'è quella mia moglie? È una scatola, ma ce n'è un baby, ce ne saranno una ventina di bustine, forse anche di più. Aspetta che chiedo a mia moglie. Natali, non lo puoi comprare senza ricetta, capito? Che è mutuabile, quindi devi far fare la ricetta dal tuo medico. Perché è micidiale, è molto potente, come detto, molto meglio dell'occhi, di tutti i cigazzati. È molto molto efficace, a me una bustina mi mette subito il sesto. E io un giorno sì, un giorno sono mal di schiena, allucinante, perché soffro proprio di lombosciatalgia, capito? Ho capito, dottore, non c'è domani, che è di sera. Me l'ha avuti tutta. Ci vai domani sera, Natali, ti fai fare la ricetta, Nimedex, segnatelo, ti fai fare la ricetta, vai in farmacia e te la prendi, perché io non ne ho neanche, se no ancora avrei passato un paio di bustine, non ne ho, infatti mi sta facendo mia moglie, le ho finite, ed è una cosa grave, a me non devono mai mancare quelle bustine, ma se mi viene l'orecchina, andrei dalla dottora, faceva la ricetta, che io non mando. E se vado dalla dottoressa non me ne vado più di quelle, mi verrai. Cosa, Natali? Che se vado dalla dottoressa non ne ordina di quelle, non me ne ordina. Perché non le puoi prendere? No, non lo so, l'occhi già non rubo su biliare. Ma il Nidemex è consigliato per tante cose, capito? Perché è un buonissimo antinfiammatorio, bustile. All'occhi, all'invisorile, c'è un buon chakra. Beh, adesso vediamo. ci sono altre bustine che mi fanno bene, capito? Io me ne sto alzando, poco fa me ne sono alzato. Cosa ho capito? Che me ne sono alzato poco fa io. Ah, io non c'ero stasera. Sono entrato poco fa, ho visto che non c'era nessuno qua, mi sono messo in ascolto sul canale 20 e stavo ascoltando lì. Però non c'ero. Siamo usciti un po' e se no ho fatto entrare a casa, un casino. Adesso mi sono già alle 8, alle 8 e mezza si cena, capito? Anche perché io stamattina ho lavorato, ero di servizio. Però sono entrato presto, un altro giorno ero già a casa e siamo usciti, allora faccio un giro, sono qua, capito? E vabbè, non mi ha dato una bellissima giornata, meglio così. Ma ecco, fatti passare il tuo dolore, vai dal medico, fatti dare qualcosa di pesante, fatti fare due punturi, mica settimana dobbiamo buttare su quarantena. Ehi, sempre se arriva, ma c'è un lungo rivolato. Arriva, ragazzi, non essere pessimista, io già arrivi, si sta dentro che non arrivi un cavo, come dire, arriva al cavo e spediranno, no? Sia lì, allora c'è natalizia, se non è mercoledì, sarà giovedì, ma che fretta c'hai, non te ne frega niente, ma tu ti dici, purtroppo sei stato un metodo di sguido e va bene così. E vabbè, proviamo ancora. Mi ha tutti tanto baiette che vuoi, siamo 4 anni, non è che hai fretta di fregatene. Sono fatto 20 anni io prima di montare direttive sul tetto, io voglio mangiare due qua, eppure la patente ce l'ho 93, ma ce l'ho, non l'ho presa ieri, quindi, ho durante 2 anni fa, più o meno. Impegnato, capito? Però vabbè, quando vai al Brasino a scendere al divano, no? Perché era coricato nel divano lì, l'aino. Gli ho detto di scendere al divano e andare sul Brandino e se poi si apparta all'aria. Pure la fotografia l'ha fatto mio moglie. Quindi adesso mi stavo cambiando. Un'altra si è coccata la Brandina. Adesso la mattina lo stiamo portando presto, però di Franco non sta più scendo perché inizia il caldo, capito? Il sole è lunghi. Allora come sta di più? Si stanca un bel, ma la caneggia. Ne fate stanno caldo, già lo so. Infatti l'estate non ho avuto neanche tutte le zanzariere perché come inizia il caldo qua alla finestra sono tutte aperte. Correnti a girare l'aria, non lo più lungo, ma tranquillo perché se no in cupatura, capito? Su per le zanzariere l'anno scorso, in modo che sono tutte le poggiolo aperte, tutto, finestre tutte aperte, la notte si dorme da tavola, veramente molto bene. Mentre di quando ero su, all'altro piano, c'era più caldo. E tu ci hai mangiato? Cosa, classe? Ci hai già mangiato? No. Anch'io. Ancora presto. Avete ci mi siedo un po' forse. Anch'io mi sono mal di schiena, ma è l'ambosciatalgia, mi ammazza, capito? Come sto inchinato, ha inventato questi nicchi di ricontrolli. Bassate che aveva inventato, basse, ti devi tutto inchinare, proprio in ginocchio ci rimette per fare la lettura dei contattori. In ginocchio, cazzo. Ma non tutto un vivere, non puoi avere più acqua. Infatti, ma nella mia zona, nei paesi, di Dama, Valedonia, Santa Maria Cuina, Trinità d'Agurto, per carità. Quindi uno che è sotto lo marciapiede, a livello dello marciapiede, mi fa dannare. Agita, non vedrei più di una sassa lì. Dopo l'estate sono a sassa questo inverno. Nel buio è la bugia. Se mi fanno la zona dico io, gli hanno incesso un po' così. Abusivi. A Sassari, l'ultimo censimento che è stato fatto, il 45% sono tutti allacci abusivi, tutti i contattori se fa piombo, a flessibile, a coso, in pochi, e se no in campagna, in abusivi, nel lago, quando ero almeno le utenze di Sumaria Guerra, un paio di fatto anche 200-300 bracci. Ma no, non le sta facendo qua a fare le letture. Sì, le sto facendo tutto computerizzato adesso. Se abbiamo direttamente la macchinetta che appoggia il contattore, si dice di chi è, di chi non è, se è moroso, se non è moroso, se allaccio a utente singolo, di tutto di dirsi, tutto. E a questo inverno sono gli assassini. Attrezzetevi, attento ratta pignara, pipistrello biroso, senza ari, devo sempre collegare le metro 100 al DAC. Tu la guarda con la radio, quanto bella, un baracchino più grande al mondo, più umano da un'altra figaroia, da 3 kilowatt. Non ho voglia di farlo, davvero, proprio non ne ho voglia, c'ho le metro 100 al peso di nuovo. A metterle il connettore, io da questa non mi stacco della vita. La giovane fotografia un gatto. No, è che sta abbagliando. E come mai? Vabbè, gente di cari. Ah, lo sai perché abbaglia? Perché vuole il pane di Concetta. Lui viaggia un bambino fretta, no. E viene a pane fresco, c'è troppo amido per i cani, capito? Meglio duro. È meglio duro che già l'amido non c'è più. Pane fresco al cane è sconsigliato. Pane duro da rosicchiare. Duro, meglio duro scappellato. Sì, la pipistrella entrando, mi sei qua. Anche te scappellato tutti i vegani, ma andate andassi a trovare la tua amante a Platamona. Sì, oggi siamo andati. Mi hanno dato qualcosa da mangiare ai cani e c'era sempre quella lì posata sul marciapiede. Sempre lì, non fa altro, sta quel giorno lì, seduta sul marciapiede, sul bordo, no? Io sarei già morto in quelle condizioni là. Poi ci siamo pigliati con mamma un bel gelato. Dite a Natalita, l'ho detto che andava a Platamona a trovare la sua amante. Lui va sempre, le porta le coperte a mangiare. E il gelato non gliel'hai comprato? Oh, il gelato ce lo pigliamo noi. Io a mangiare lo porto ai cani, a lei un cazzo ne porto. Scusate il termine. No, quella chiede 100, ma chiede 1 euro per il caffè, ma poi lo userà per mangiare sicuramente. Ma io non capisco quella donna come faccia a mangiare, se mangia roba fredda, se c'è un fornetto per cucinare, non si sa se mangi pure o come mangia. Ma io appena c'è tempo scendo a vedere, ma era proprio qualche neolio roba che no. Non ci mettiamo, ma com'è, vestita sporca, com'è? No, vestita, cioè non è barbona di quelle tutte rognose, no? Però si è fissata che se non le intestano la casa da lì non se ne va. E stavo per dire, e tanto ne mangimi. Ma sempre tu sei. Aspetta che mamma ha fatto danno. Non è niente, dai. E vabbè, quindi ero lì e poi siamo andati da Oshan a fare, a comprare due cosette, tipo l'olio, budini, piccole cose. Poi non sono entrato perché ero alla TV, dai. Qui è arrivata la cena, anzi il pranzo, ciao a tutti. Antenata di me, capito? Voglio provocare, ben teso, sei entrato, adesso si mangia il budino, il cioccolato, capito? Io come sto? Allora, se la finisce la sta via, chi si chiama essere un babba? Ma voi siete usciti oggi, perché quando sono tornato acceso il baracchino era deserto. Sì, ho trovato c'è una Natalina, sono uscito, sono qua, così a fare una passeggiata, mi voglio un giretto. Sono entrato poco fa, anch'io acceso, non c'era nessuno. Mi sono messo in ascolto sul canale 20, c'era un questo, così da ascoltare. E poi ho girato qua, ho chiamato Natalina, mi ha risposto Natalina. Ma sono entrato tardi anch'io, ma bella domenica, un po' di relax, dai. Ma è poi stare dalle 5 in radio a Fagosa. E tu Natali sei uscito oggi? No, che c'ho quel dolore, ero coricato fino a poco fa, Marco. Ero coricato. Me lo sono alzato poco fa, non addormentato, bucata, chi non mi ha fatto dormire. Ah, non ti è passato ancora, caspita. Oh yeah, ti sto dicendo, adesso dopo mi faccio parlare un po' di Voltaren, cosa vuoi ti dica? Ce l'ho quel Voltaren emolgente, però non mi ha fatto un tubo. Passalo, 2-3 volte al giorno, passalo che è efficace. Bah, io non credo in questi gel, questa roba da spalmare, ci vogliono intramuscolo. Intramuscolo oppure manipolazione della zona, non so se vada sbloccata la zona. Massaggi cinesi ci vogliono, non lo so. Se rimane il dolore vuol dire c'è qualcosa di accavallato, che sia un nervo, che sia un disco della schiena, come si chiama qui? Una vertebra. Non lo so, Natali. Non è un disco io, aia. Lombosatalgia, tipo lombosatalgia, che deve essere, ho preso qualche strappo, perché colpo non ne ho preso. Stavo togliendo il divano, lo stavo aprendo e mi è giunto un dolore, guarda, meglio la morte. Non ho strappo, non ho sciatalgia, dai, fregatene, che già passa, Natali. Ascolta, ce l'hai appurato le mani al telefono, quello dove rispondi, non quello WhatsApp? Sì, che ce l'ho. Che devo chiedere una cosa, vai a mangiare tu, vado a pignare. Già fatto, sto già mangiando, dai. Mangia, richiamo un attimo, devo chiedere una cosa. 7 a dopo, se no tenete duro. Ciao. Eia, eia.